Globetrotter 24 di Valeria De Rosa. Buon pomeriggio a tutti voi che in queste lunghe giornate avete scelto di tenere accesa la radio. Ci facciamo compagnia e tra una notizia e l'altra cerchiamo anche di non spegnere la fantasia e l'immaginazione. E non smettiamo di fare progetti, perché ora è un dovere stare a casa, ma prima o poi torneremo anche a viaggiare. Il sommario. In queste domeniche vi racconteremo le tante cose belle del nostro paese, per immaginarle e per andare poi a cercarle sui libri o online, per mettere via qualche consiglio per quando potremo tornare a fare gite fuori porta o vacanze più lunghe. Restiamo in Lombardia con il Castello di Chignolo e il Cammino di Sant'Agostino, poi un salto a Torino perché la compagnia Casa Fuls porta il teatro a casa vostra. Questo ritiro forzoso nelle nostre case ci regala anche delle possibilità, come per esempio andare a scoprire quello che di bello c'è nelle nostre regioni e che fino a ieri ignoravamo. In questo viaggio virtuale ho chiesto aiuto a un'amica, architetto, direttrice del Museo Tattile di Varese. Lei è Livia Cornaggia e ci accompagnerà in queste settimane scegliendo per noi castelli, chiese e paesini da raccontare. Che si lasciano guidare forte, poche parole. Ciao Olivia, benvenuta. Ciao Valeria, grazie, come stai? Ce la caviamo, e voi come state lì a Varese con il museo chiuso? Con il museo chiuso ce la caviamo, insomma, stringiamo tutti quanti i denti e cerchiamo tutti quanti di stare insieme tra musei in maniera virtuale. Allora Olivia, da questa settimana noi cerchiamo di andare in giro per l'Italia con la fantasia, con l'immaginazione, con gli occhi, per vedere un po' quello che c'è intorno a noi. E questa settimana partiamo dalla Lombardia, e lo facciamo di proposito, e partiamo da un castello, perché tu hai scelto il castello di Chignolo Po. Ho scelto un castello perché amo i castelli e ho scelto Chignolo Po perché la tua idea di camminare con la fantasia in Italia è un'idea straordinaria e perché Chignolo Po in questo momento è davvero in una zona un po' complicata. Il castello di Chignolo Po è meraviglioso. E soprattutto non fa eccezione rispetto ai castelli che costellano tutta la nostra penisola e tutte le nostre regioni, perché è una sorta di meraviglioso libro di storia. Allora Valeria, praticamente ogni reggia, ogni castello che noi incontriamo, che vediamo da lontano, che scopriamo in cima a una montagna, eccetera, eccetera, ha un suo perché, che non solo spiega la natura del territorio in cui si trova, la funzione per esempio di una strada che lo collega a un paese, l'origine di una cittadina che si è sviluppata vicino, ma chiarisce molte volte anche gli obiettivi politici, strategici ed economici del signore che l'ha costruito. In sostanza, il castello di Chignolo Po è in un posto, come dire, un po' abbandonato nel nulla. Siamo in una lingua di terra leggermente rialzata a metà tra il Lambro e il Po. Quindi sostanzialmente siamo in provincia di Pavia, siamo in una zona che non ha una bellezza paesaggistica particolare. Ci sono soprattutto zanzare e nebbia. Quindi vedendolo e vedendo questa meraviglia architettonica ti potresti chiedere perché quella che è definita la Versailles della Lombardia è stata costruita lì. È stata costruita lì perché questo territorio ha una sua funzione straordinaria ed è stata costruita lì nel suo primo nucleo addirittura nel 740 dal re dei Longobardi Liutprando, il quale all'epoca aveva capito che costruire una fortezza a cavallo tra il Po e la via Francigena, quindi in due posizioni di controllo fondamentali, avesse un obiettivo di protezione, di difesa e di diffusione del potere dei Longobardi. Quindi il castello di Chignolo Po parte nel 740 come fortezza difensiva, allo scopo di proteggere il flusso delle merci sul Po che stanno andando a Venezia e quindi a Oriente, ha la funzione di proteggere e di controllare i viandanti e le merci che attraversano la via Francigena e si sviluppa man mano ampliando la propria struttura. Ma non si ferma lì. Questo castello ha una storia che dura molti secoli, quindi parte come fortezza difensiva, diventa castello di potere, diventa feudo e poi arriva nel 700 a diventare una reggia vera e propria. Allora, perché? Nel 700 il cardinale Cusani, partendo da questa struttura preesistente e partendo appunto, come abbiamo detto, dal fatto che si trova in un territorio straordinario dal punto di vista strategico, decide di trasformarlo. Che funzione avevano all'epoca le regge? Erano delle dimore sontuose, erano spettacolari, erano incentrate sul concetto della meraviglia, dovevano in sostanza stupire, affascinare, raccontare il potere sociale, politico, economico del proprietario ed essere un luogo di accoglienza che facesse in sostanza gran scena e che rendesse conto della grandezza del Signore che le aveva costruite e le gestiva. Allora il cardinale Cusani decide di trasformare il castello di Chignolo Po, lo amplia, lo fa decorare, lo riempie di ori, di stucchi, di specchi, di giochi di prospettive, di trompe-l'œil, di sculture e lo fa circondare, cosa che è tipica delle regge settecentesche e quindi di questi palazzi meravigliosi, da un giardino all'italiana. I giardini all'italiana all'epoca avevano di nuovo una funzione straordinaria in termini di meraviglia, erano affollatissimi di siepi meravigliose, molto curate, avevano dei disegni geometrici fatti coi vialetti, avevano le piante sagomate in forma di statue e poi avevano i giochi d'acqua, le fontane, i labirinti vegetali, quindi avevano una sorta di funzione di allargamento della meraviglia della reggia verso l'esterno. Livia, ti interrompo solo un attimo perché mi par di capire che sia per tutta questa trasformazione che poi viene un po' definita come la Versailles della Lombardia. Esattamente, oggi lo si definisce la Versailles della Lombardia perché la sua struttura sia interna che esterna è davvero riconducibile alla grandezza e alla sontuosità di Versailles. Tu pensa che ha un parco di 30 ettari che ospita tra l'altro un piccolissimo palazzo del tè, quindi un'architettura barocca che aveva una funzione ludica, di svago. Adesso ha un laghetto, ha dei ninfei sparpagliati attraverso i 30.000 ettari, ci sono fontane, gazebi, c'è un cortile d'onore straordinario che è collegato al parco con un ponticello molto, come dire, molto barocco, molto curato. È pieno di affreschi che sono stati realizzati da pittori della scuola di Tiepolo, ha delle sale che sono davvero una più scenografica dell'altra e una più emozionante dell'altra. E è stato talmente bello nel corso dei secoli, è diventato talmente bello ed è talmente bello oggi che questa definizione di Versailles della Lombardia calza a pennello. Ha ospitato, per dire, Napoleone Bonaparte, Francesco I d'Asburgo, quindi figure della storia ed è visitabile oggi nella sua interezza, sono percorribili i giardini, sono attraversabili tutte le sale ed è quindi una destinazione vicina a casa, come si suol dire, in un terreno, in un territorio un po' tutto da scoprire, soprattutto in questo momento, capace di dare delle emozioni all'altezza di Versailles. Questa è sicuramente una di quelle mete da andare a scoprire quando ovviamente potremo tornare a andare in giro. per il nostro territorio, per noi che siamo in Lombardia, per tutti quelli che sono fuori ovviamente da appuntare lì in un angolo e magari appunto riprenderlo fuori quando verrete a vedere, a visitare questa regione che comunque ha tanto tanto da regalare, da offrire, ha tanto ancora da scoprire. Grazie Livia. Grazie a te Valeria. Dalla Lombardia ci spostiamo in Piemonte, non per raccontarvi un luogo, quanto per parlarvi di un'altra possibilità che si apre nelle nostre case. La compagnia teatrale Casa Fulz viene a casa vostra. Da Torino si sposta virtualmente nel vostro salotto e lo farà anche questo pomeriggio alle 17. Luigi Orfeo è uno dei tre componenti della compagnia. Nel vuoto del letto di una domenica. Ciao Luigi, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te Valeria e a tutti gli ascoltatori. Allora, noi ci eravamo sentiti a ottobre quando avevamo presentato quello che era il vostro progetto e che in qualche modo poteva incuriosire i nostri ascoltatori e con l'occasione venire anche a visitare Torino. Adesso invece in qualche modo siete voi che portate Torino dentro le case di tutti coloro che lo desiderano, perché appunto in questo momento la necessità e la richiesta è quella di restare a casa e quindi voi vi siete inventati, avete proposto questa modalità di teatro a casa di coloro che vogliono vedervi. Esattamente così. Abbiamo fatto un passo indietro nel tempo e due passi avanti nel futuro. Un passo indietro nel tempo perché ci sentiamo un po' come i primi varietà che dal teatro si spostavano in televisione e quindi nelle case degli italiani, e un po' un passo verso il futuro perché questo nostro varietà, pur essendo rigorosamente dal vivo, rigorosamente a camera fissa e senza interventi di natura tecnologica a rovinare quello che è la pura esibizione dal vivo, riusciamo a interagire con il pubblico in maniera trasversale, riusciamo a farli cantare con noi o a parlare con noi, riusciamo veramente a usare la tecnologia da quel punto di vista per comunque tenere un contatto con le persone che ci ascoltano e che partecipano a questo varietà in streaming. Infatti abbiamo avuto forse più di 3.000 interazioni con la nostra diretta streaming, fra messaggi su WhatsApp, su Messenger live durante la diretta, e ce ne sono arrivati di tutti i tipi, da chi ci registrava la propria voce cantando insieme a voi, insieme a noi, a chi ci mandava dei commenti rispetto a quello che chiedevamo di volta in volta in diretta. Diciamo che è una sorta di fantastico nel 2020. Anche se domani sarò un rimorso. Senti Luigi, voi appunto avete fatto una prima rappresentazione la scorsa settimana, la seconda la farete a brevissimo, questo pomeriggio alle 17, giusto? Ebbene sì, procuratevi un computer, così col cellulare potete interagire con noi. Beh, computer è meglio perché potete mettere lo streaming a schermo intero, mentre col cellulare potete interagire con noi scrivendoci in diretta su WhatsApp, che è sulla diretta streaming, e con gli altri strumenti che mettiamo a disposizione. Che cosa rappresentate, ricordiamolo? In realtà è un varietà, quindi rappresentiamo tantissime cose diverse. Abbiamo anche la nostra piccola orchestrina dal vivo, che sono Oreste Forestieri e Michele Salituro, che sono i musicisti che hanno fatto diversi spettacoli insieme a noi e che si sono prestati a questo varietà in streaming, e quindi fanno la nostra orchestrina dal vivo. Ci siamo io, c'è Roberta Calia e Stefano Sartore, che siamo i tre fondatori di Casa Fulz e che guidiamo per l'appunto questo varietà, fatti di numeri, sketch, leggerezza. Cioè, l'altra volta abbiamo ospitato Augusta Balla dalla Svizzera e le abbiamo telefonato, fatto una videochiamata su WhatsApp in diretta davanti alla telecamera e davanti al cellulare che mandava in diretta streaming, e noi col cellulare inquadravamo un altro cellulare, un esperimento di meta social praticamente continuo. C'era qui anche Dario Benedetto, che è un autore e comico torinese molto affermato, che è venuto a fare un pezzettino qui con noi, e questa domenica qui ci saranno sicuramente degli ospiti, ma il fulcro centrale siamo noi, e quello che facciamo è creare degli sketch, leggeri, briosi e quindi legati all'attualità, ma cercando per distrappare un sorriso, perché crediamo che in questo momento ridere sia una cosa che ci ricorda che siamo vivi fondamentalmente. Senti Luigi, come ha accolto il quartiere questa vostra trasformazione repentina, visto che il quartiere ha una grossa parte nel vostro progetto? Sì, ce li siamo ritrovati in streaming, praticamente avevamo gran parte del nostro pubblico in diretta con noi, che ci vedevano e ci commentavano, quindi quasi una buona fetta direi del nostro pubblico abituale ci ha frequentato in streaming, e grazie a questa fetta di pubblico abituale molti amici degli amici hanno cominciato a conoscere la nostra attività, che magari online abbiamo avuto più possibilità anche di arrivare a pubblici diversi, e quindi il nostro pubblico, il nostro zoccolo duro era tutto presente online dall'inizio fino alla fine della trasmissione, che dura circa 30 minuti, e sempre attivi e sempre vivi all'interno del varietà. Ricordiamo brevemente tecnicamente come ci si collega a voi, qual è il sito, come si fa? Sulla nostra pagina Facebook, quella di Casa Fools, bisogna mettersi comodi, aspettare le 17, alle 17 verrà pubblicato un post con una diretta, basta mettere play alla diretta e guardarselo comodamente. Tra l'altro il nostro quartiere ci sta aiutando tantissimo, perché tutti si sono messi anche a disposizione di quello che, se abbiamo delle necessità particolari, anche i nostri vicini, veramente si sono dimostrati tutti estremamente gentili, perché capiscono che noi siamo chiusi già da 2 settimane e ci aspettano tantissime altre settimane di chiusura. Chiaramente le spese non si fermano e quindi noi rischiamo effettivamente il collasso e non sappiamo neanche se effettivamente riusciremo a sopravvivere per riaprire nella prossima stagione. Però l'affetto e soprattutto il sostegno delle persone che ci hanno seguito fino adesso è stata una valanga che ci ha veramente travolti e ci ha dato grande coraggio per continuare. Non ultimo, eravamo veramente scettici, non solo noi ma anche tutti gli altri teatranti, perché noi abbiamo attivato il cappello digitale, il cappello virtuale. Alla fine dei nostri spettacoli qui è il pubblico che decide quanto vale il biglietto. Dal vivo entra gratuitamente il pubblico, vede lo spettacolo e poi alla fine con responsabilità determina quanto vale l'arte nella propria vita. Ebbene, noi abbiamo provato a fare questo esperimento anche in virtuale, anche a distanza, e bisogna dire che ha funzionato. Abbiamo ricevuto anche lì dei gesti veramente di grande cuore da parte dei nostri affezionati. Ci fermiamo per qualche istante, restate con noi. One Express, il pallet espresso. Vi presenta Globetrotter 24. Torniamo in Lombardia, scelta volutamente in questo momento di difficoltà. L'associazione Cammino di Sant'Agostino, per aggirare questo non piccolo ostacolo della impossibilità fisica a viaggiare, ha deciso di mettere online il video del cammino diviso in tappe. Saluto Renato Ornaghi, che è il presidente dell'associazione Cammino di Sant'Agostino. Benvenuto. Saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Allora, voi in questo momento così particolare avete un po' aderito a quello che è il mood anche di altre realtà, mi vengono in mente i musei per esempio, quindi quello di viaggiare senza viaggiare, utilizzare lo strumento tecnologico per accompagnare le persone, almeno con la fantasia, con l'immaginazione, in questo caso con dei video, li accompagnate attraverso un cammino. Allora, ci racconti un po' meglio questa vostra iniziativa? Sì, è un'iniziativa che parte da un cammino che è fisico, parliamo del cammino di Sant'Agostino, che si trova in Lombardia, e tra l'altro coinvolge molto la città di Milano. Agostino è un santo che a Milano è stato battezzato, è molto legato alla città di Milano e alla Lombardia, proprio perché le sue reliquie sono a Pavia. Quindi è un cammino devozionale che, come tutti i grandi cammini europei e mondiali, raggiungono delle reliquie, nel caso nostro le reliquie di Agostino a Pavia, nella città di Pavia, città splendida, una città romanica spettacolare. Ecco, purtroppo questo cammino, che viene solitamente camminato da grandi amanti dei cammini, c'è tutto un piccolo piccolo grande mondo di affezionati al gesto del camminare, che trovano nei lunghi cammini un bel momento di svago, di apprezzamento della natura e tutto quello che ci sta intorno. Ecco, purtroppo in questo momento questa azione molto bella del camminare è bloccata da contingenze ben note. E la nostra idea è stata quella allora di far conoscere e come dire, avvicinare all'esperienza del cammino, di questo nostro cammino, in un modo diverso attraverso dei video girati proprio in modo molto accurato lungo tutto il percorso. Quindi chi volesse fare questo cammino proprio da casa, guardandoselo, ammirandoselo, lo può fare connettendosi ai video che abbiamo pubblicato sul nostro sito, come dire, virtuale, di camminare in attesa di poterlo fare ancora fisicamente, come è giusto e più bello fare. Questo è quello che possiamo fare in questo momento. Raccontiamolo però un po' questo cammino, perché prima o poi sarà possibile, appunto come lei diceva, farlo fisicamente. Quindi magari possiamo dare l'idea un po' di come si snoda questo cammino. Sì, è un cammino, come dicevo, legato alla figura di un grande santo della cristianità, Agostino, che è nato e morto in Africa, ma che per motivi misteriosi è legatissimo alla Lombardia, in particolare a tre luoghi. Uno è Milano, sotto il Duomo di Milano in particolare c'è una chiesa antichissima dove Agostino venne battezzato da Sant'Ambrogio nel 387, questo è uno dei luoghi che il pellegrino di questo cammino visita. Altri luoghi, uno è in Brianza, si chiama Rusca Siciacum, dove Agostino si ritirò e si convertì nel 386. Il terzo luogo che ho già citato è la città di Pavia, che in una spettacolare chiesa romanica, la Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, ospita le reliquie di questo grande santo. È un percorso lungo, sono 620 chilometri solo in Lombardia, ha un percorso molto originale, nel senso che non è un percorso rettilineo, ma si snoda a forma di fiore di rosa, un fiore virtuale disegnato sulla Lombardia, che va a toccare 50 santuari lombardi. Quindi nel camminare questo percorso, che parte da Monza, il pellegrino tocca i luoghi agostiniani e 50 santuari, gli dimando la credenziale del pellegrino, quel bel documento che si riempie di tingri. Chi ha avuto qualche esperienza, qualche amico che è andato a Santiago, sa che c'è questo bel documento che il pellegrino vidima nel suo camminare. E il percorso è di 620 chilometri, come dicevo, e quindi è un percorso da fare in più giornate, non basta una giornata, sicuramente occorrono 26 giorni, almeno abbiamo stimato, e devo dire che molti lombardi in particolare lo fanno nel weekend, cioè nel weekend scelgono due o tre tappe di questo lungo percorso e lo percorrono 15, 20, 30 chilometri secondo le capacità, le potenzialità di cammino che uno ha. Stiamo parlando di percorsi molto belli, molto semplici da camminare, quindi non si tratta di andare in alta quota con soverchie difficoltà, è un camminare nel territorio che noi siamo abituati a vedere più per ragioni di lavoro che per ragioni di turismo, cioè la Lombardia, il Milanese, il Contado, la Martesana, cioè luoghi che nonostante la frenesia del lavoro e l'urbanizzazione hanno mantenuto ambiti spettacolari che meritano di essere riscoperti. Non dico scoperti perché sono sicuro che gli ascoltatori, in particolare lombardi, li conoscono. Ne cito uno ad esempio, il tratto di fiume Adda che parte dalla città di Cassano d'Adda e risale fino a Lecco. Ecco, questo è un ambito eccezionale legato a figure storiche come Leonardo da Vinci, che lungo questa alzaia di fiume dipinse la Vergine delle Rocce. Quindi sono luoghi eccezionali da camminare e quello che noi auspichiamo è che, guardando questi video, l'aspirante pellegrino, magari passata la buriana di queste brutte giornate, ritornando il sereno della salute, possa percorrerle fisicamente. Ecco, luoghi che sono vicini a noi, ecco, non si tratta di andare in Galizia piuttosto che negli Stati Uniti, in Giappone, ci sono cammini spettacolari in giro per il mondo, ma lo dico a beneficio soprattutto dei milanesi e dei lombardi, ci sono anche degli splendidi cammini da farsi nella nostra regione. Se io le chiedessi di scegliere una tappa, lei quale sceglierebbe? Urca, bella domanda. Sono tantissime le belle tappe, una l'ho già citata, quelle lungo il fiume Adda. Mi permetto di dire che anche la tappa milanese, perché il cammino passa da Milano, in quanto andando a visitare i luoghi diciamo devozionali legati all'Agostino di Milano, non si può fare a meno di camminare a Milano. Ecco, anche la tappa milanese ha il suo perché. Ecco, adesso per Milano non si può girare, ovviamente, però sono sicuro che se visitate, cari ascoltatori, il sito internet, scoprirete nelle tappe milanesi dei luoghi che non pensavate ci fossero, che invece sono proprio a un tiro di schioppo dai nostri piedi, quindi veramente luoghi da riscoprire. Altri luoghi, un'altra tappa, se posso citare per la facilità con la quale la si può raggiungere, la tappa che parte da Mariano Comense e arriva a Monguzzo, sono due località brianzole che magari non dicono molto, ma raggiungibilissime grazie al treno delle Ferrovie Nord. Uno può arrivare in treno a Mariano Comense e farsi una camminata spettacolare nel verde della Brianza, arrivare a Monguzzo e da lì riprendere il treno che ti riporta a Milano. Questa è una tappa veramente fuori porta, la facevano i nostri nonni per fare la classica scampagnata domenicale. Ecco, un suggerimento di un po' chilometro zero, ecco, non c'è bisogno di andare a vedere i castelli della Loira, che pur sono spettacolari, abbiamo delle cose spettacolari anche a tiro di treno che meritano veramente di essere camminate, cioè camminare la Lombardia è veramente una cosa che merita di essere fatta. Ci fermiamo qui e se volete scriverci anche per suggerirci luoghi, edifici particolari da raccontare, potete farlo a globetrotter@radio24.it. A tutti voi l'augurio di una bella settimana.